Trovati a Suoni Paralleli, un programma di approfondimento sulla musica a tutto tondo in onda sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 FM. Un salotto convivio tra musicisti, addetti ai lavori e non solo, rivolto a soddisfare le curiosità, tutte le curiosità che girano intorno al mondo della musica. Chi vi parla è Antonino Barresi e con me a co-condurre il nostro viaggio una già nota e grandissima voce di Radio Fujiko, Francesca Clementoni. Ciao Francesca, ancora benvenuta a questa puntata di Suoni Paralleli. E io sono tra tutti i protagonisti che hai citato, il non solo. Esattamente, diciamo che tra i tanti ruoli abbiamo anche dei ruoli inaspettati, come in questo caso addetti ai lavori, musicisti e non solo, in questo caso conduttori e speaker radiofonici. Esattamente. Yeah. Io direi subito di andare un po' a parlare del concept del nostro programma, che riguarda il mix di generi musicali, di come si miscelano, ma che riguarda anche le produzioni indipendenti e non. Riguarda un po' questo viaggio tra i suoni paralleli che fanno parte del circuito della musica. Con noi ovviamente ci sono stati tantissimi ospiti che hanno dato il loro punto di vista sui vari argomenti che abbiamo trattato. Oggi una puntata veramente, veramente per noi e gli amici bolognesi, diciamo, molto, molto speciale, perché con noi entriamo un po' in questa fase clou del nostro format. No? Siamo intorno all'ottava, nona puntata, quindi diciamo che i nostri ospiti sono stati davvero tanti. Ci avviamo verso le puntate finali di questa prima stagione di Suoni Paralleli, quindi stiamo cominciando ad andare un po' sul pesante. Possiamo presentare questo nuovo ospite o io direi di introdurlo tanto, musicalmente. Lo francese. Sanno tutti gli ascoltatori, sanno, e anche le ascoltatrici, che tanto tu l'ospite lo dici dopo il brano, quindi okay, vai col brano. Siccome il brano è abbastanza immediato, non sarà molto difficile per i nostri ascoltatori capire che lo super ospite di oggi di Suoni Paralleli su Radio Fujiko è un bolognese doc indipendente, ma di produzione doc. Ancora benvenuti, questi Suoni Paralleli, questa è Radio Città Fujiko. Quando mi dicono, hai 30 anni, sei un uomo, hai 30 anni, sei un ragazzino, decidetevi. Non mi sento molto bene, dovete smettere di bere, di fumare, di bestemmiare, ma mi diverto ad essere quello che... Fatti una famiglia, non andare a letto tardi, non svegliarti tardi, relativamente presto, relativamente abbastanza. Comunque chiama quando arrivi e compra la frutta al mercato e non mangiare troppi grassi. Non faccio la spesa da 2 anni. Non mi sento molto bene, come chi prende tutte le medicine per dormire, per mangiare, per sorridere, per piangere, per vedere che succede, le medicine per scopare, le medicine per non sentire niente, e chi non prende nessuna medicina perché viva la natura, ma la natura è cattiva e poi si muore. Non mi sento molto bene quando mi dicono, devi passare in radio, 2 strofe corte, 3 ritornelli, meno parole, meno idee, meno tutto. Guarda, se non dici niente non sbagli. Qui non c'è ritornello, mi diverto lo stesso. Qui non c'è ritornello, mi diverto, qui non c'è ritornello, mi diverto lo stesso, qui non c'è ritornello, mi diverto. Puntualizzo, polemizzo, mi diverto, puntualizzo, moralizzo, mi diverto. Non mi sento molto bene, se esco la sera mi rompo i coglioni, mi metto a contare il tempo che passa tra un venditore di rose e l'altro. Sai, una volta le band erano ben altre, sai, una volta i politici erano ben altri, sai, una volta i giovani erano ben altri, solo tu sei rimasto il solito rompi i coglioni. Non mi sento molto bene quando siete peggio dei fascisti, sfruttate i posti occupati, non sapete cos'è il punk, e ogni nostro successo è un complotto e ogni vostro fallimento sfortuna. Questi sono e resteranno sempre i migliori anni della vostra sfiga. Non mi sento molto bene, fai rispettare i tuoi diritti, smettila di volere troppi diritti, ai miei tempi non ci si lamentava. Guardali, ti consegnano un mondo di merda e fanno pure a gara per darti la colpa. Non mi sento molto bene quando in campagna elettorale esaudiscono tutti i tuoi desideri, tipo l'allungamento del pene, una terza di seno, i KitKat che non si sciolgono, il cinghiale bianco, i soldi gratis, la sinistra al governo. Non mi sento molto bene quando mi dicono non c'è più lavoro, non c'è più religione, non c'è più educazione, non c'è più cultura. Non c'è neanche un cazzo di ritornello. Qui non c'è ritornello, mi diverto lo stesso. Qui non c'è ritornello, mi diverto. Qui non c'è ritornello, mi diverto lo stesso. Qui non c'è ritornello, mi diverto. Puntualizzo, polemizzo. Mi diverto, mi diverto. Puntualizzo, moralizzo. Mi sento molto bene, ma mi diverto, con live senza sosta, gli evergreen, i classici istantanei, i regimi totalitari, i no logo, i no global, il nome stesso. Non sono mai stato meglio. Qui non c'è ritornello, mi diverto lo stesso. Qui non c'è ritornello, mi diverto. Qui non c'è ritornello, mi diverto lo stesso. Qui non c'è ritornello, mi diverto. Qui non c'è ritornello, mi diverto lo stesso. Qui non c'è ritornello, mi diverto. Qui non c'è ritornello, mi diverto lo stesso. Qui non c'è ritornello, mi diverto. E ancora benvenuti a Suoni Paralleli su Radio Città Fujiko. Chi vi parla è Antonino Barresi e con me Francesca Clementoni alla co-conduzione. Insomma, Francesca, diciamo che è arrivato il momento di presentare il nostro super ospite della giornata. Come avete ascoltato, da... Non è lodo. Non è neanche debo. Ma non è neanche... Chi sarà? Vediamo. Chi sei? Io non lo so. Con noi ospite a Suoni Paralleli, mister Enrico Roberto, H. Carota dello Stato Sociale. Eccomi. Benvenuto, caro. Come stai? Benissimo. Benvenuto a Suoni Paralleli, è davvero un piacere averti con noi. Era un po' che ne parlavamo, insomma, che ci dovevamo vedere, dovevamo fare questa puntata, questo suono parallelo, doveva andare prima o poi in porto. È davvero un piacere, ci siamo riusciti. Sempre da almeno uno lab di Bologna, sempre registrando in binaurale, grazie a mister Stefano Arcero, e col coordinamento tecnico di Gino Di Fazio. Ancora benvenuto, siamo partiti subito dallo Stato Sociale. Perché? Yeah. Perché, insomma, abbiamo fresche noi... diciamo acquisiti e non originali bolognesi, in questo senso, tutte le grosse soddisfazioni di sti ragazzi, insomma, ci stanno dando delle soddisfazioni. Posso dire che io sono oltremodo emozionata. Sei contenta oggi? Che abbiamo sono finalmente contenta ed emozionata una band perché bolognese. Io gli Stato Sociale, io e queste emittente, li hai visti crescere, fammi li sentire. Li ha visti nascere, praticamente. E con questo sveliamo l'età della nostra co-conduttrice, no dai, non lo diciamo. Ma so vecchia, si può anche dire. Ma noi non è che siamo in giro da tantissimissimo comunque, quindi potrebbe essere anche 25. Sono giovanissima. Esattamente, sì, non si sa mai per la serie, potremmo avere qui con noi un adolescente alla co-conduzione. Sì. Senti Enrico, ancora veramente benvenuto, ti volevo subito chiedere come sta andando, siete in un momento particolare, stai vivendo una fase artisticamente, professionalmente molto molto interessante. Vi abbiamo visti diciamo protagonisti assoluti a Milano per il Forum di Assago, giusto? Quasi 10.000. Quasi 9.000 presenze. Grandissimo, veramente un grandissimo risultato dopo quello che era stato il risultato di Bologna del Paradozza, che avete già un grandissimo sold out a carico, diciamo. Vi abbiamo visto il primo maggio a Roma, questo primo maggio pazzesco, che insomma è stata un'edizione molto particolare, molto controversa, in cui voi avete dato un contributo molto interessante. Sì, una fascia oraria importante. Sì, insomma. Eravate diciamo tra gli headliner. Tra gli headliners, sì, c'erano gli editors prima di noi, che abbiamo visto poi picchiarsi dopo quando è finita l'esibizione. È stato molto bello, sì, questo è un aneddoto che ci tenevo a raccontare qui, insomma. Fantastico. Sempre scozzesi, ubriachi, esclusivo. A un certo punto... E finita tutta l'esibizione, li abbiamo visti fuori vicino a una gelateria, il chitarrista, quindi new entry del tour nuovo degli editors, che con questo suo amico scozzese, non si sa da cosa è nato il diverbio, però a un certo punto sono... sono scaturite delle testate in faccia di pugni. Hanno battezzato il nuovo membro della band. Esatto, esatto, proprio così. C'è stato un tracollo fisico, un'ambulanza, insomma. Comunque, molto interessante. Fascia oraria per citare Arbore, visto che era su Rai 3, vengo dopo il TG. Vengo dopo il TG, no, no. sono stati davvero inseriti in un contesto che poi era anche quello giusto, una performance molto molto particolare, di un'apertura secondo me veramente notevole, di un impatto sul pubblico veramente notevole. Ci siamo anche accorti che tanta parte del pubblico era proprio lì anche per sentire un po' lo stato sociale, che è una delle band che ultimamente in Italia sta dando al panorama indie una visibilità molto importante, di cui spesso abbiamo anche parlato. Infatti ti chiedevo di come va, insomma, questo periodo di splendore, proprio perché il tuo periodo riassume un po' quello che sta succedendo nella musica indipendente italiana. Vale a dire, sono tanti gli artisti di ottimo livello nella musica indipendente che stanno raggiungendo pian pianino un livello di mainstream assolutamente, diciamo, dignitoso, come in questo caso dello stato sociale, come abbiamo parlato di vari Bruno Risas, no? Abbiamo fatto ascoltare anche qualcosina. Sì, diciamo che non sono realtà che sono nate adesso, cioè sono realtà di cui il mainstream si sta accorgendo adesso. Per i numeri. Per i numeri. E diciamo che c'è stato per un lungo periodo una sorta di chiusura di occhi nei confronti di quello che stava succedendo al di sotto. Volevano un po' far finta di niente, volutamente. Non lo so se volessero, comunque sia, non hanno lavorato molto bene, a mio avviso, nel senso, certo, che comunque sia le radio, sia le televisioni, sia le grandi etichette non indipendenti, Sony, Universal, eccetera, eccetera, hanno dovuto, diciamo, sintonizzarsi su quello che era il movimento del pubblico e non viceversa. Molto spesso le radio dicono: pubblico, sentite che cosa c'è di bello in giro in Italia. Certo, impongono i cataloghi famosi. Esatto, e quindi il pubblico... Cosa dice... che non fa Radio Fucico, ragazzi, che radio fa Fucico, ascoltare solo la musica indipendente decisa da direttamente chi fa il programma, come esatto, in questo caso noi. Non, siamo esclusi autonomi e indipendenti, no, da qualsiasi cataloghi. No, no, era giusto per sfottere, dai. Cioè, ci sono addirittura radio italiane che ancora, cioè tipo Virgin Radio adesso sta adottando la politica del non trasmettere nessuna canzone in italiano, mai. Cioè, che politica è veramente strana, che politica è questa, proprio una chiusura completa nei confronti della propria cultura, della propria tradizione musicale. Ma infatti in realtà forse Virgin Radio in questo senso non voglio si vuole fare distaccare dissing. Sì, però potrebbe essere, diciamocelo davvero, una scelta vera e propria che può distaccare effettivamente il Virgin Radio da un pubblico strettamente italiano, sembra strano, perché trasmettono sul territorio nazionale italiano, no, vogliono fare tra virgolette, o vogliono avere un respiro più internazionale probabilmente, ma questo secondo me non ma giustifica, cioè, non giustifica tante, la scelta. Quante ore va in onda una radio al giorno, nel senso, si possono fare diversi, diciamo, programmi, certamente. No, infatti è davvero particolare come però... la situazione dei live di cui abbiamo tanto parlato, questa situazione soprattutto dell'approccio mainstream con il mondo dell'indipendente è un argomento che è all'ordine del giorno in tanti dibattiti che fanno parte non solo del mondo della musica, poi in realtà. Però devo dire che c'è un fenomeno in corso che forse negli anni passati, parliamo del fine Novecento, insomma, non era successo, ovvero che le band underground fondamentalmente avevano una loro nicchia di riferimento molto consolidata, molto importante, ma rimanevano nicchie che si muovevano intorno alle band, e forse le etichette oggi, cioè fino a oggi, non hanno scommesso sull'indie perché pensavano fosse lo stesso tipo di sviluppo. Il punto è stato che l'indie invece ha cominciato a muovere masse di pubblico che hanno portato loro al mainstream, le band. Si può, non è vero, essere... non credo sia il caso di Garincia Dischi, comunque. Certo, che sono i produttori, diciamo, sono i produttori dello stato sociale. Sì, sono l'etichetta dello stato sociale, degli Ex Otago, insieme a Henry, della rappresentante di lista, certo, dell'Officina della Comunità. E diciamo, loro sono stati fra i primi a scommettere su di noi e l'hanno, diciamo, vista lunga, e in questo momento si trovano in una posizione. Sono stati bravi, lavorano molto bene, sì. Bisogna fare i complimenti quando capitano queste cose, è evidente, sono stati bravi, siete stati bravi voi, e a voi vanno i nostri complimenti. Trovati. No, davvero, penso che un po' tutti i bolognesi si sentono molto orgogliosi di questo stato sociale. Sì. Sta andando, no? Bene, sì. Bene, bene, sono contento. Certo, io che ti iniziare chiedevo... il tour con 9.000 esatto, persone e un primo maggio, per le nostre emotività, è stato un po' difficile. È stato adesso sarà tutto però in discesa, ragazzi. Certo. I concerti che faremo adesso per noi saranno proprio la tranquillità. Vogliamo dire, dove sarete in giro in Italia? con il tour che sta, diciamo, partendo ormai? Abbiamo una ventina di date, ci sarà la prima data sarà il 20 maggio a Prato, nella piazza centrale di Prato. Poi faremo lo Sherwood Festival, faremo sì appunto una ventina di date. Un po' in giro, un po' ovunque. Un po' diffuse. Adesso non c'è una data bolognese ancora. Beh, ho notato. Insomma, ho notato anch'io, mi hanno fatto notare un po' di bolognesi. Suoneremo a Riolo Terme per chi sì. è disposto a muoversi, però a Bologna non lo so, non lo so, dobbiamo decidere la chiusura. C'è tempo, la chiusura arriverà sicuramente. Vabbè, c'è il Dall'Ara a questo punto, scusa, vabbè, dopo Milano, abbi pazienza. Speriamo. Fatto. Grossetto quello, Grossetto però sicuramente noi possiamo augurarvelo e sicuramente noi di Suoni Paralleli con Radio Fucico supporteremo, visto che di qualità musicale si parla, visto che di mondo degli indipendenti si parla, visto che questo è uno degli argomenti che più ci sta a cuore, proprio perché crediamo nello spirito della musica indipendente e nel suo apporto al panorama musicale italiano come esigenza primaria, e lo continuiamo a fare appelli, diciamo, sia alle istituzioni, poi anche spesso che in maniera tale che loro possano arrivare anche a creare degli spazi in cui l'indie abbia modo di esprimersi ulteriormente. L'indie si sta prendendo gli spazi in questo se momento. Se li sta prendendo, certo piano, piano. È che sarebbe bello trovare un po' qualche porta già aperta invece che doverla sempre sfondare. Certo. E quindi da noi come programma Suoni Paralleli abbiamo spesso parlato anche dello stato di salute dei live in Italia. Infatti poi voglio chiedertelo, parlando nell'arco della trasmissione anche degli altri progetti che adesso andremo a fare ascoltare il nostro pubblico, però insomma diciamo che l'indipendente sì ha il suo modo di prendersi gli spazi, ma che sarebbe anche il caso con le istituzioni di andare a fare un po' a remare nello stesso senso, insomma, dal senso dell'arte e della cultura, che poi sappiamo bene essere l'unico senso vincente, soprattutto in una città come Bologna, che l'ha ampiamente dimostrato per la sua storia, no? Direi, vero Franci, da bolognese, sì, che ne pensi? E la storia recente e quotidiana e odierna non fa ben sperare sulle istituzioni, perché comunque continuano a essere fatte normative, chiamiamole così, e restrizioni per cui gli ambiti di live sono sempre più ristretti. Bene. Beh, però abbiamo il Locomotive che questa a Bologna. Ed è una delle realtà, certo. Ce ne sono alcune in realtà che stanno provando siamo a spingere. Siamo orgogliosi di Locomotive, ragazzi. Certo. Assolutamente sì. Assolutamente. Però voglio dire, ti faccio un esempio. Sì. Io venerdì sera con il mio compagno volevamo andare fuori a cena in un posto dove ci fosse anche musica. Mm-hmm. Suonata live. Sì, ma non il Locomotive che ci vai, certo, dopo cena, certo, certo, che va benissimo, ma è un'altra tipologia. Che genere di musica volevi sentire col tuo moroso fuori? Ma guarda, eravamo abbastanza aperti, eravamo abbastanza aperti, una cosa però di una buona qualità, insomma, una cosa vai. È stata dura. Sono andata alla Fucina 209 di Granarolo. Beh. Okay. Bene, già assolutamente una scelta dignitosa. In questo momento Bologna non aveva dato chissà cosa. In realtà magari c'erano delle serate non certo per colpa tua, potevi anche non saperlo magari, cioè certo, certe volte le attività in realtà ci sono, gli spazi però hanno bisogno anche di essere spinti e di essere pubblicizzati, certo, in certo modo, esatto, come sta facendo, dai, parliamoci chiaro, anche lo stesso Locomotive di cui parlava Carota. Però senti, ti chiedevo, importante, no? Il tuo periodo sta andando bene, è una fase di assolutamente ascesa dal punto di vista artistico professionale con lo stato sociale, ma sappiamo che sei impegnato in tantissimi progetti in cui non ti occupi soltanto strettamente della composizione delle tastiere, ma diciamo sei un po' al 100% al centro di questi progetti, come sì, ad esempio il progetto Keaton, che è sì, appena uscito sempre tramite il Garrincha Sound System, di cui secondo me vale la pena dire giusto due paroline, perché certo, il progetto è davvero interessante. Di Keaton, Keaton e di Garrincha Sound System è la branca, diciamo, elettronica, di puramente elettronica, di Garrincha Dischi, sì, e quindi ci si occupa prevalentemente di fare musica dance, il più possibile dance floor, strumentale, certo, quindi generalmente quello che è cantato è un po' lasciato al margine, giusto per distaccarsi di più da Garrincha. E Keaton diciamo invece, che viene, essendo che era dal, due dei membri di Keaton sono anche i fondatori di Garrincha Sound System, abbiamo detto no, ma noi vogliamo cantare nei progetti, essendo che abbiamo fondato l'etichetta, lasciatecelo fare, poi gli altri no. Sì, siamo usciti con il disco. Ah, quant'è che siamo usciti? Cosa c'è scritto lì? Io non ricordo le date, però. Guarda, un paio di mesi fa. 24 febbraio. Febbraio. Quante ne so. È grande. Cosa grande c'è supporter. Scritto lì? Mi ha sgamato, mi ha fatto sgamare dalla diretta che non ce l'avevo scritto. Mannaggia. Vabbè, mi sono autosgamato io che non so l'uscita dei miei dischi. Ti ricordo che dalla scorsa puntata abbiamo la GoPro che ci fissa, quindi comunque ecco, saresti stato sgamato. Esattamente, attento. Sono ormai la costretto che c'è a. Lì. Sì, infatti. Comunque, allora, per quanto. Perché hai detto una cosa. Io non sono solo tastierista allo stato sociale, ma mi sono occupato di praticamente tutta, di tutta la produzione del disco. Sì. Essendo indipendente, appunto, non è che con lo stato sociale ci rifacciamo a un produttore esterno, facciamo tutto in casa noi, litigando, odiandoci, volendoci bene a momenti, ubriacandoci nello studio, eccetera, certo, eccetera. Quindi, come producer. Godo di molta più indipendenza lavorando ai progetti miei, quelli in cui probabilmente siamo tutti d'accordo a livello musicale di cosa vogliamo andare a fare. Certo. Nello stato sociale siamo tutti prime donne e quindi bisogna equilibrare, dai, e quindi un po bisogna tutte equilibrare, le band venirsi incontro, insomma, certo. Forse per Lodo, il cantante della band, dovremmo fare dischi indie pop e british, cioè tipo punk rock, tipo Baby Shambles, Libertines, eccetera eccetera. Forse per Bebo faremmo roba tutta alla Burial storta e quindi bisogna trovare un equilibrio. Bella, certo, questa cosa, però. Però è il retroscena di quello mi che piace. Fa i suoni paralleli servono proprio a questo. Senti, quelli. Andiamo a ascoltare chi. Direi che poi sì, abbiamo torniamo, parlato un sacco, veramente. Torniamo alla Moon. No, invece io dico, è davvero un piacere averti qui. Il tuo parere in questo caso è molto importante, come quello di tutti i nostri ospiti, perché il senso del nostro programma è proprio quello di andare a sapere quello che si pensa dal punto di vista dell'artista. Spesso e volentieri durante le interviste si vanno a presentare i progetti che uno porta in produzione. Invece il bello, proprio perché c'è una chiacchierata tra musicisti, tra amici, tra virgolette, è proprio con i nostri suoni paralleli quello di andare ad indagare su quelli che sono i retroscena, quello di cui parliamo noi mentre ci prendiamo un caffè. Enrico, dai, parliamoci chiaro, direi adesso, proprio perché mentre ci prendevamo un caffè già qualche mese fa a Capodanno che suonavamo insieme in un luogo ignoto e praticamente ho avuto modo di avere un primo approccio col progetto Keaton, mi è subito interessato, ho pensato di introdurlo nella nostra Suoni Paralleli. Andiamo ad ascoltarlo, proprio riassumendo il discorso su Garrincha Sound System, sì. Andiamo a far ascoltare questa Not With You del progetto Keaton feat. La rappresentante di lista, altra band Garrincha Sound System. Questa è sempre Suoni Paralleli su Radio Città Fujiko 103.1 FM. Of these lands, crossing the valley, I finally find and take my own risk. Scream, what am I doing? Run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. La la la, like the river scrapes the bottom. Escape and blossom. I'll take the bad road. I'll take the bad road. Lone, lone, lone, lone. What's in my bad road? Lone, lone shadow. Better than. like a creeper, mellow reaver, losing the shape of my heart, the source of my eyes. Who would take the risk with that to be where I'm better than being? Not with you, not with you, not with you, not with you. Who would take the risk with that to be where I'm better than being? Ben trovati, Suoni Paralleli, un programma di approfondimento sulla musica a tutto tondo in onda sulle frequenze di Radio Città Fucico 103.1 FM. Un salotto convivio tra musicisti addetti ai lavori e non solo. Chi vi parla è Antonino Barresi e con me a co-condurre il nostro viaggio Francesca Clementoni. Ancora benvenuta in questa nuova puntata di Suoni Paralleli, Francesca, con il nostro ospite special one, no? Possiamo dire, per quello che riguarda l'indie bolognese, sì. Mister Carota dello Stato Sociale. Ancora benvenuto a Suoni Paralleli. Abbiamo fatto ascoltare anche, insomma, altri tuoi progetti, abbiamo un po' parlato della tua ecletticità anche dal punto di vista della produzione e di quello che sta succedendo come periodo, diciamo, nella tua attività anche con lo Stato Sociale. Io volevo riprendere il discorso della produzione. Io sì, posso fare una domanda prima? Tu scusa. Puoi, e come? Artisti come te che sono impegnati su progetti così differenti anche, mm-hmm. perché cosa riportano da un progetto all'altro, o se riportano? Allora, ad esempio nello Stato Sociale, una cosa che mi ha fatto bene lavorando insieme a loro è capire che ogni singolo elemento della band ha qualcosa di veramente caratteristico da portare all'interno del progetto. Uno scambio. Certo. Ad esempio lo Stato Sociale nasce da una potenza di contenuto che viene data maggiormente da chi scrive maggiormente lì dentro. Io non sono uno di quelli che scrive maggiormente testi, eccetera, eccetera. Ultimamente però la mia anima sta venendo molto fuori, la mia anima un po' più pop di quello che ha ascolti completamente diversi, viene da un mondo completamente diverso e questa cosa l'ho voluta riportare dentro i Keaton, cercando di mischiare un po' quelle che sono le qualità individuali. Ad esempio il nostro batterista ha una voce fantastica, l'abbiamo scoperto a pochissimo tempo, e adesso da batterista diventerà cantante della band anche. Sarà batterista cantante. Certo. Questa cosa. Proprio perché c'è stato lo spazio per, insomma. Per capirlo. Molto spesso quando suoni in una band non c'è tutto questo spazio di far venire le anime certo. di ognuno fuori. Bisogna trovare sempre quello che dicevamo prima, un po' i punti di equilibrio che permettono ad una band poi di coesistere in tutte le sue forme. Anche per la collocazione, diciamo, discografica, il fatto che ci siano troppi cantanti dà dei problemi. Cioè. Perché se io ti ascolto con Amarsi Mal, lo Stato Sociale, dico, ah, quello quindi è il cantante dello Stato Sociale. Poi ascolto Eri più bella come ipotesi, ce n'è un altro con un sound completamente diverso. Sposta l'attenzione. Certo. E questa invece è una cosa che secondo me dà un valore, aggiuntivo, diciamo. Io concordo con te, anche perché sono convinto che proprio le influenze, proprio più sono e meglio è, e che poi i veri progetti che vanno a riscrivere un po' i sound moderni sono proprio quelli che hanno come input, diciamo, tanti. input, hanno diverse soluzioni dal punto di vista espressivo, poi scelgono quella che è la modalità di espressione migliore. Tornando al discorso di Francesca, quanto un artista porta da un progetto all'altro, in realtà un artista ha una personalità sua forte, ce l'ha sempre in base al progetto, chiaro che deve trovare i punti di equilibrio che portano all'espressione corale, quindi la parte social della musica viene fuori proprio negli equilibri che si trovano anche all'interno di una band. Sono le parti più importanti, che credo che siano la parte fondamentale poi della riuscita del progetto, no? Certo, certo. E poi un'altra roba veloce è quello che accade durante uno spettacolo, lo stato sociale, insomma, abbiamo vinto un paio di anni fa un premio per miglior live, nonostante la musica molto spesso è un po' passa in secondo piano. E l'aspetto di quello che succede, il fatto di diversificare così tanto i momenti del live, di divertirci, di saltare, eccetera, eccetera, è stata la cosa che ci ha premiato molto più live che su disco. Nei Keaton abbiamo deciso che fondamentalmente non solo l'aspetto sonoro non sarebbe stato sufficiente, quindi nei live ci portiamo dietro un artista visuale che ci fa dei video e crea una parte scenica. Che è fondamentale per chi se no sarebbe solo catturato a livello audio. Assolutamente, anche perché sappiamo benissimo che nel 2017 la performance è costituita da tantissimi elementi, esatto. Tra cui anche poi la parte front del palco, no? In questo caso lo stato sociale è proprio per questo, ha tanti frontman, diciamo, esatto. Così, che possono spingere su questo tipo di approccio. È davvero interessante. Io volevo tornare poi, per quello che riguarda il discorso Keaton, a far ascoltare qualcosina, perché è un discorso molto interessante quello che poi nel caso del nostro ospite ha portato un po' alla miscela di delle tante influenze. Sappiamo che hai sempre avuto, oltre che un'anima pop come tu ritieni di avere, anche un'anima molto elettronica, che questo progetto Keaton in qualche maniera ti sta dando la possibilità di esprimere. Quindi volevo andare ad ascoltare un'altra delle produzioni di Keaton, proprio per presentare questo lavoro che sappiamo è uscito a febbraio, quindi è da pochissimo sul mercato, come insomma porterà, come lo stato sociale, in tour il nostro ospite per tutta quest'estate. Quindi sarà in giro non solo con lo stato sociale ma anche con dei live col progetto Keaton. Sì, giusto? È difficilissimo, ragazzi, però ce la faremo. Assolutamente, tenendo presente il discorso di prima, vale a dire che gli spazi mancano, ma che ce li andiamo a prendere per la serie. Date a Cesare quel che è di Cesare, perché sennò se lo prende lo stesso. Quindi non so come spiegartelo. Bene, bene, quindi quello che andiamo ad ascoltare qui su Suoni Paralleli, sempre su Radio Fujiko, di Keaton, questa è Can You Do It? No, scusami, Can You Do It Too? Esatto, detta bene. Thank you. dei Keaton, il progetto di cui stiamo parlando, e messo in piedi da Carota e And Friends. And Friends, che non ce li sono, dici purtroppo. Friends? I Friends sono Ippo Nicola Roda, che lavora anche nello stato sociale, come lavora sul palco dello stato sociale durante i live, e Salvatore Viscardi come batterista. Davvero un progetto interessante, per cui noi ti auguriamo veramente tutto il nostro in bocca al lupo, insomma, per questo nuovo progetto, e chiaramente in bocca al lupo per il nuovo tour. La copertina del disco è bellissima, vi consigliamo di andare subito a cercare questo lavoro di Keaton, sia sul web che eventualmente in distribuzione. E per quello che riguarda Suoni Paralleli, stiamo volgendo un po' al termine, mi dispiace davvero perché è stata una puntata bella, ne abbiamo parlato un bel po' in questa puntata, ma era doveroso farlo perché avevamo qui un ospite con cui due chiacchiere per i nostri ascoltatori bolognesi di Radio Fucico andavano fatte. Sì, possiamo sempre farlo tornare. Sì, magari appena avremo modo di annunciare la data dello stato sociale a Bologna, torni a Suoni Paralleli, così avvisiamo il pubblico che lo stato sociale sta riatterrando sui circuiti bolognesi. Noi abbiamo chiaramente tutta la voglia di risentirvi, e insieme al nostro in bocca al lupo ancora il nostro grazie a Keaton, Carota, lo stato ragazzi, sociale. Ci vediamo casa. Prestissimo. Sì, Suoni Paralleli vi dà appuntamento alla prossima settimana col coordinamento tecnico di Gino Di Fazio, da almeno uno lab di registrazione con il 3D binaurale di Mr. Stefano Arcero. Antonino Barresi e Francesca Clementoni vi augurano una buona continuazione. Ancora grazie a Mr. Carota di essere stato con noi. L'ultimo brano con cui chiudiamo, andiamo a risentire uno dei producer che stiamo facendo ascoltare molto in Suoni Paralleli, che è Grammatic, che sta andando davvero forte con questo suo ultimo lavoro, e che abbiamo, diciamo, ci ha dato un po' in là anche spesso da alcune analisi per quello che riguardava il mix tra i suoni, diciamo, che vengono dalla world music con quelli dell'elettronica. In questo caso un lavoro molto simile a quello che hai fatto tu, utilizzando anche le influenze del pop, in questo caso con il tuo progetto Keaton. Questa che andiamo a ascoltare è l'ultima canzone che va in onda oggi su Suoni Paralleli per Radio Città Fucico. Ci vediamo sabato prossimo con noi Grammatic. Ancora a presto, questa era Suoni Paralleli. Ciao. Ciao. Yeah. We on some next shit with this. Hey yo, fuck your shoebox money. You buying whips with cryptocurrency right now. Tyler Durden, make him holler murder. Take him to the highest point of the earth, no need to follow further. The shit is universal, no time to do rehearsal. I never take a break, that shit is too commercial. I wasn't raised different, I was made different. Flow don't fuck around like it was raised Christian. Antisocial with these kids, we don't play with them. We just keep a small circle and we stay lifted. I need Monopoly bread. Told her if it ain't sex, then it gotta be head. So you got some candles, I prefer the sloppy instead. Do my own thing and they prefer to copy instead. The money got them in a frenzy, probably wanna envy. Glass half full, but the bottle's left empty. Baby, I'm a gentleman, but I don't do it gently. Backwoods with the henny, back good, never trendy. Rick Kush got plenty, I be off of the feelings. Getting tuned with the rhythm, now I'm leaving the room. Let the mood reawaken like I'm out of the tombs. Each room's keep moon, going out with a boom. For the gold, I be walking every road on the map. Get a vibe low key and the flow is relaxed. But once the smoke is in the air and we pouring the jack, we like singers, certain actors, we don't know how to act. Switch it up, let your bitch pop a bean in a hat. Got a queen hitting ass, sipping lean in the back. Bank robbery, we going and we leave with the cash. We just getting what we need, see no reason to ask. Cause drugs unlock doors in my mind where I never go. Learning to acknowledge while accepting what I'll never know. Living in the moment while we can't, cause you never know. Just take the energy you got, baby, and let it go. Came to spit a sonnet, sonically colder than comets. Surf a rocket to the moon and can't nobody stop it. I'm hyperbolic, my words curve extra wavy. Yo, paint a map of the sky, shit, you could call me Haley. Before that cold shit, just a cloud of smoke. When you realize you don't know shit, the quicker you gon' grow. Got that van, gon' blow, go crazy on a starry night. Hate a couple boomers on my way here and I'm feeling right. Hop about to whip and say what up to everyone around. Let me get a show that you already know how I get down. Overdone, say I'm overdue for all these accolades. I don't really think about it, I'm just trying to rap and pace. Stack a couple bitcoins, haul up on my Nakamoto. Chillin' with your lady friend, she rock a red on Takamono. Posted up in Acapulco, shout out to the homie Smoko. Loco at the show, hold up, posing for the family photo. Epiphanies on symphonies, epic epigrams. Man, these words last for centuries. This shit's timeless, grab it on your tomb. Don't say the sky's the limit when there's footprints on the moon. Moon walking on the sun, sun beaming, I'm a star. Star shooting into space, spaceship it up to Mars. Yeah, I'm universal, my purpose to pursue this path and give back, that's how life's supposed to circle. Yo G, bro that purple, run that beat, back reversal. I don't need no damn rehearsal, this is internal, eternal. Life is like a flick, leaving space for the horns, that's my shit. Until we meet again, paint the world with brighter colors. Word to the pride mob, y'all my sisters and my brothers. One time for the lovers, spread that energy around. And keep it all in motion, getting lost inside my sound. Stack a couple bitcoins. Money, money, money, money, money. Hold up on my Nakamoto.